Terremoto! Dentro i colpevoli e fuori i nomi. Mezzogiorno di fuoco e sangue tra famiglie onorabili. Sul mercato canta il violino, la ballata dell'impunità. Spogliamo il ladrone, spogliamo tutti i loro nomi. Terremoto ed eclissi al sole, persiane ti ascoltano, abbandono da triste storia, ho paura ma e voglio da mangiare. Fiori e piombo, sangue, sangue, erano secoli, secoli, secoli, secoli fa. O forse un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, il ladro, dimmi chi è, fagli il nome, il ladro, dimmi chi è, non so niente, non so dove, non so, dimmi chi è un parassita, il ladro, dimmi com'è. Mezzogiorno canta il violino, che si chiama fatalità. Combatti il terrore, prova a dargli faccia e nome. Terremoto di fiori e sangue, non è la fame ma è l'ignoranza che uccide. Combatti il terrore, prova a dargli faccia e nome. Non un attimo, un attimo, un attimo, un attimo in più. Perché già troppo, già troppo, già troppo, già troppo è il ladro. Dimmi che va, fagli il nome, il ladro. Dimmi chi è, non so niente, non so dove, non so. Dimmi chi è un parassita, il ladro. Dimmi dov'è, voglio qui. L'omertà!